Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Lo sport nelle donne di mezza età può prevenire l'artrite. È la conclusione a cui sono arrivati i ricercatori danesi e statunitensi che hanno analizzato i dati relativi a oltre 6.000 donne. A Obiettivo Salute il commento del professor Carlo Selmi, responsabile di reumatologia e immunologia clinica all'ospedale Humanitas e docente all'Università degli Studi di Milano. Fare esercizio fisico e mantenere il peso corporeo normale previene l'artrite reumatoide. Questa è una grande notizia che ci permetterà di agire in maniera più personalizzata sulle persone particolarmente a rischio e quindi soprattutto sulle donne. Oggi non esistono più motivi per mettere le persone a riposo e credo che questo sia un motivo in più per incoraggiare l'attività sportiva, soprattutto a basso impatto. Per saperne di più ascoltate l'approfondimento sulle pagine di Obiettivo Salute. Fegato protetto con il caffè. Dalla ricerca arriva l'ennesima conferma. Ma quali sono le ulteriori attenzioni e precauzioni che possiamo adottare per proteggere questo organo messo a dura prova da brindisi e pranzi delle feste? A Obiettivo Salute il dottor Stefano Fagioli, direttore del reparto di gastroenterologia e patologie e trapiantologia all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. In previsione di queste feste consideriamo almeno due situazioni importanti. Chi ha già una malattia di fegato deve evitare gli eccessi di qualunque tipo e soprattutto gli alcolici. Ma siccome la maggior parte di noi non ha questo problema, quello che dovremo fare è compensare l'eccesso calorico consumando di più, e quindi l'attività migliore è un'attività aerobica, quindi camminare e portare a spasso il nostro fegato ed evitare che si affatichi troppo con queste feste. Se volete saperne di più potete ascoltare l'approfondimento sulle pagine del nostro programma. Per oggi, cari amici, è tutto. La programmazione di Radio 24, come sapete, prosegue con Melog e io invece vi aspetto in diretta video per parlare di un organo elastico, flessibile, creativo, ottimista, generoso e paziente. Parlerò di utero insieme al mio esperto per suggerire i controlli da fare e i segnali da non trascurare. Vi aspetto, a tra poco, buona giornata da Nicoletta.